Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, il penultimo sabato di ottobre. Se n'è andato anche questo bellissimo mese che io amo moltissimo, se n'è quasi andato, godiamocelo ancora per qualche giorno. E cominciamo dal paese in Europa che amo di più, perché metà delle mie origini sono lì, che è la Germania. E la Süddeutsche Zeitung di 3 giorni fa ha dato la notizia che la parola razza, rasse in tedesco, sparirà dalla Costituzione. Lo hanno concordato Angela Merkel e il vice cancelliere Olaf Scholz e il ministro dell'interno Horst Seehofer, secondo appunto la Süddeutsche Zeitung, e che ha messo questa notizia in prima pagina. L'iniziativa si deve in realtà a una proposta del Partito dei Verdi, che all'inizio fu rigettata. La parola razza sarà cancellata, mentre resterà la protezione dal razzismo, si leggeva su questo quotidiano, che è un quotidiano di Monaco di Baviera. Nell'articolo 3 della carta tedesca, infatti, si legge che nessuno deve essere penalizzato o avvantaggiato a causa della sua razza. E però ormai questa idea di razza, sapete che penso sia stato Albert Einstein, ogni volta che lo cito qualcuno mi dice e in realtà è stato qualcun altro a dirlo, in ogni caso a me risulta che Albert Einstein avesse detto: quando mi chiedono di che razza sono, io rispondo razza umana, quindi non bianco, nero, giallo, ma appunto razza umana, Homo sapiens scientificamente. Poi ci sono anche notizie sulle inchieste, un'inchiesta in particolare di cui si è parlato anche in Italia, perché aveva avuto anche delle ramificazioni in Italia, ed è lo scandalo dei cosiddetti Panama Papers. E sempre la Süddeutsche Zeitung ha dato ampio spazio al fatto che è stato emesso un mandato d'arresto internazionale per gli avvocati Jürgen Mossack, che è di origine tedesca, e Ramon Fonseca. Sono mandati di arresto internazionali della procura di Colonia. I due sono accusati di associazione a delinquere e di aver agevolato innumerevoli casi di frode fiscale, e sono anche titolari di uno studio a Panama, da qui appunto l'idea Panama Papers, che nel frattempo è stato chiuso e sono tuttora ricercati. Negli anni 80 questi due signori avevano fondato a Panama appunto uno studio specializzato per costruire società di comodo, le cosiddette società di comodo, cioè delle scatole vuote che però servono appunto a architettare frodi fiscali. In realtà la Süddeutsche Zeitung ha spiegato che non ci sono molte speranze di arrivare presto a un arresto, che nel frattempo, anche perché questi due avvocati nel frattempo hanno ottenuto la cittadinanza panamense, da sapere che dal 2016, l'inizio dello scandalo, sono state aperte 150 inchieste riguardo questa costituzione di società di comodo a Panama in 79 paesi. Parliamo anche di ci spostiamo in Francia e torniamo sul grande tema del Recovery Fund, che sapete, quel pacchetto di aiuti di dimensioni mai viste, che è stato varato per in qualche modo aiutare tutta l'Unione Europea e i paesi più colpiti, tra i quali naturalmente c'è il nostro, per l'emergenza sanitaria che è diventata economica legata e sociale legata alla pandemia. Come sapete, sulla data in cui questi 209 miliardi di fatto arriveranno in Italia, cominciano a esserci sempre più incertezze, e questo ha spinto la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che è stata anche presidente del Fondo Monetario Internazionale, in una lunga intervista a Le Monde, a suggerire che i leader dell'Unione Europea dovrebbero valutare se il Recovery Fund possa essere uno strumento permanente. Sapete che questi prestiti sono architettati in modo da essere in parte a fondo perduto e in parte erogati con interessi particolarmente favorevoli. È molto complesso questo tema, anche perché sulla carta sono 209 miliardi, in realtà se si dovessero poi da questa cifra togliere i contributi che già comunque l'Italia dà all'Unione Europea, la cifra sarebbe leggermente inferiore. Insomma, è un tema molto delicato di cui sappiamo si sta discutendo molto in Italia. Pochi giorni fa è stato presentato, con ritardo rispetto ad altri paesi, ma comunque entro i termini fissati, il nostro recovery plan, che è quello che serve per ottenere questo recovery fund, E vedremo appunto se nelle discussioni che sono in corso a Bruxelles, almeno prima della fine dell'anno, e ricordiamolo, con la fine dell'anno scade il mandato di il semestre di presidenza europea della Germania, e sappiamo anche che è stata la Germania insieme a Macron a volere questo recovery fund e a volerlo distribuito in questo modo così favorevole per l'Italia e anche per altri paesi. Il tema, forse chi, insomma, chi ha, è famiglia, che sfoglia spesso il Sole 24 Ore, questa notizia è stata raccontata sul Sole 24 Ore da Simone Filippetti, che è il corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, e parlo del fatto che la Royal Mail ha preso come esempio per la sua evoluzione le Poste Italiane, e il Sunday Telegraph qualche giorno fa ha ospitato appunto una lunga intervista all'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Delfante, che ha spiegato come abbia suggerito di fare il rilancio delle poste britanniche, che si chiamano Royal Mail, sull'esempio di quanto è stato fatto in Italia. Financial Times che in prima pagina questa settimana ha avuto spesso notizie legate all'economia, ai grandi istituti finanziari, ecco, mettiamola così. Ieri, venerdì, in prima pagina c'era la notizia della maxi multa che Goldman Sachs ha accettato di pagare per lo scandalo avvenuto in Malesia in una delle sue sedi, e invece due giorni prima aveva parlato del fatto che le maggiori banche americane, incluse Citigroup e JP Morgan, hanno messo in guardia i loro dipendenti. I bonus potrebbero non tenere il passo con gli utili. Ora sapete che è anche legato in parte un po' all'immaginario di New York, come immortalato anche in tanti romanzi, uno per tutti, Il falò delle vanità di Tom Wolfe, come appunto un luogo, Manhattan più che New York, dove ci sono queste persone che lavorano nel mondo della finanza, che a un certo punto dell'anno hanno enormi disponibilità perché ricevono i bonus che sono legati agli utili della banca, ma soprattutto alle percentuali sulle operazioni che hanno concluso. Ebbene, gli utili probabilmente alcune banche li faranno comunque, ma secondo quanto ha scritto Financial Times, gli istituti vorrebbero cercare di gestire le aspettative soprattutto dei dipendenti nelle aree che hanno registrato un forte balzo dei profitti. In sé questo perché? Perché a tutte le banche è stato suggerito, ma credo che qualsiasi amministratore legato di buon senso lo avrebbe fatto comunque, è stato suggerito di fare molti accantonamenti per future perdite sui crediti, perché questa crisi, abbiamo detto, prima sanitaria poi economica e sociale, ha portato anche a una crisi di tutte le persone che sono indebitate o le aziende che sono indebitate. Quindi negli Stati Uniti ci si indebita per qualsiasi cosa e c'è, come sapete, pochissimo risparmio personale privato pro capite, però ci sono naturalmente anche i mutui, soprattutto i mutui delle case. Dalla BBC invece vi segnalo, ma la notizia poi è rimbalzata su tutti i giornali, che il Regno Unito sta spingendo per essere la prima nazione a condurre degli studi esponendo deliberatamente cavie umane al coronavirus. I test potrebbero coinvolgere fino a 90 volontari, persone sane, e potrebbero iniziare a gennaio, e puntano ad accelerare la corsa per ottenere un vaccino contro il Covid. Quello che succede è che appunto viene inoculato il virus, e visto che si sa che l'inoculazione avviene in una persona sana, si osserva pure appunto tutto quello che succede all'interno dell'organismo di questa persona dopo che gli è stato inoculato il virus. Perché anche di questo si è parlato tantissimo, e sapete che questa è stata la settimana in cui il Dipartimento di Giustizia americano, equivalente del nostro Ministero della Giustizia, ha intentato causa a Google per posizione dominante. Quindi insomma Google ha i suoi problemi in patria, ma da Vox Europe vi segnalo questo interessante articolo di Andreas Wu intitolato "Come il lobbying delle GAFAM", che naturalmente è l'acronimo di Google, Amazon, Facebook e Apple, penetra le istituzioni e i governi in Europa, e si registra appunto dalle carte che ha consultato e esaminato Andreas Wu un drastico aumento nelle spese di lobbying da parte di queste grandi aziende del settore tecnologico, che tra l'altro questa è anche la copertina dell'Economist di questa settimana, cioè questo rapporto tra le grandi piattaforme tecnologiche, soprattutto quelle che vengono usate tutti i giorni, quindi non tanto Apple ma piuttosto Facebook e Google e in una certa misura anche Amazon, ha di fatto corroso le leggi sulla privacy europee, tradizionalmente tra le più rigide al mondo. È un po' come se ci fosse stato un trasferimento di potere a queste grandi aziende. Vi segnalo anche internazionale di questa settimana, prima di tutto perché la copertina è dedicata al presidente della Nuova Zelanda, che ha appena vinto con una percentuale molto alta che le permette di governare solo con il suo partito, appunto appena è stata confermata, quindi avrà un secondo mandato. Ma la cosa interessante è che la Nuova Zelanda è anche forse l'unico paese al mondo, nemmeno la Corea è riuscita, nemmeno Singapore sono riusciti a fare così bene, che è riuscita a controllare il virus, tanto che nella settimana scorsa addirittura si è giocata una partita di rugby con il pubblico, con lo stadio pieno, perché appunto l'emergenza è finita. Ma a parte la copertina, vi segnalo un articolo interessantissimo, perché quello che è successo in Francia con la decapitazione dell'insegnante è naturalmente, credo abbia colpito tantissimo tutti. Dalle tante analisi, doverosamente citiamone una che viene dalla Francia, la Pubblica Internazionale, tradotta da Le Monde: nessuno deve più morire di insegnamento, scrive Jérôme Fenoglio. La scuola è in prima linea nella lotta all'estremismo islamico, dopo l'omicidio di Samuel Paty la Francia non può più lasciare soli i suoi insegnanti. E anche su questo abbiamo registrato sui giornali francesi di questa settimana che comunque sì, il presidente Macron ha annunciato che presto ci saranno nuove misure per limitare i pericoli del fondamentalismo islamico che si annida nelle pieghe della società francese. Per ora però di queste misure ancora non è stato dato un elenco preciso, magari arriverà nei prossimi giorni. Intanto questa era l'ultima segnalazione per questa settimana, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.